sopra la mia tomba. Le sue righe mi rurano appena io non già rispondo. Ti vendo in una sessione. Se tu vuoi la mia presenza, io ce la rugno tutta. Tanta mia l'acqua mi bagna e lo vento mi asciuga. Pa pa pa, baciami vicino con la po po po. Bocca piccolina dammi ta ta ta. Tanti baci, baci in quantità, ma questi baci a chi li devo da? Pa pa pa, baciami vicino con la po po po. Bocca piccolina dammi ta ta ta. Tanti baci, baci in quantità, ma questi baci a chi li devo da? È già mattina, ma con te non dormo tutta la sera. Lo sai, sono impazzita così tanto da cercare conferme dentro una tazza di caffè. Dovrei lasciarmi andare con te, ma non mi so fidare. Perché vai via e poi ritorni come se io fossi niente. Mi hai fatto scuola di fantasmi, ma non sono Wendy. E ok, se mentre ballo penso un altro. Se ti offro un dito tu ti prendi il braccio. Se ti viro pisciata cancio vico. Tanto di mascoli lo monnechino. Forse era meglio una pistola. Ma una pallottola non basta. Aver paura dell'amore. Una storia senza un po' d'amore. Ba ba ba, baciami vicino con la bo bo bo. Bocca piccolina dammi ta ta ta. Tanti baci, baci in quantità, ma questi baci a chi li devo da? Ba ba ba, baciami vicino con la bo bo bo. Bocca piccolina dammi ta ta ta. Tanti baci, baci in quantità, ma questi baci a chi li devo da? Come fotte sembri che droga m'abbraccia. Entra a casa mia, scegli la bara grazia. In silenzio in fila, mi uccideranno in vita. Si offriranno poi per trasportarmi a braccia. La gente che mi chatta come se fossi un ordo mi scado con niente. Beh, da che ti aspetti, ne imparato niente. Non si può non stare male per amore. Io penso solo al successo, ma so che non mi guarda dall'alto. Proteggimi dall'inferno, fammi vedere come fai milagro. Come fai, fai, fai, fai, fai. Bo, bo, bo, baciami vicino con la bo, bo, bo. Bocca piccolina dammi ta, ta, ta. Tanti baci, baci in quantità, ma questi baci a chi li devo da? Ba, ba, ba, baciami vicino.